Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui. Eccoci. 16 marzo, caro Alessandro. 16 marzo che, oimè, l'anniversario del 1978, oggi veniva sequestrato Aldo Moro. Mamma mia, giorno della mia vita, veramente tragico. Mi sembrava che crollasse tutto. Vabbè. Un pezzo è crollato, ma poi insomma, le illusioni, quando sei giovane non capisci molto, a dire la verità. Poi la prima moto brevettata nel 1861, santi vari e diversi, Sant'Ilario e Taziano, che sono i protettori, di patroni di Gorizia, Eriberto di Colonia, Agapito di Ravenna, Allo. Sì, Eusebia. Ecco, questi sono i nomi dei santi di oggi, quindi. Va bene. Invece, allora, il numero lo sapete per telefonarci, 800 24 0024. Caro Oscar, secondo me oggi ci sono tante cose interessanti. Eccomi. Vabbè, eccomi. Io ho detto che è per me uno spettacolo, anche quasi gratuito, vedere questa campagna elettorale che rivela. In realtà è chiaro che è un po' di ironia, è uno spettacolo. Stai bene a dire quasi gratuito, show. Perché noi abbiamo una certezza, che come cittadini ci costerà sì, poco, sì, ma sì, è sicuro, sì. È ovvio. Come gratuito insegna, nel senso che non paghi il biglietto, assisti alle dichiarazioni. E paghi le tasse dopo, più altro, perché come vedi, sai, quando, cioè, quando il rapporto di Cantone di ieri, no, poi lo sentiremo tra poco. Avremo Cantone ospite, tra poco. L'autorità anticorruzione, cioè, scopri che insomma ci sono queste 18 capi d'accusa terrificanti, 230 filoni di inchiesta solo a Roma, 230. È chiaro che paghiamo, purtroppo. Lo paghiamo. E tra l'altro il prefetto Tronca ha fatto una straordinaria intervista oggi a Roma, su Roma, questa, Repubblica, c'è questa frase, no? Un po' da Cesare, venivi di vici, perché dice che a Roma dice si parla molto, si ascolta poco e si lavora ancora meno. Ma c'è una frase da scolpire. Che Tronca, appunto, non ha bisogno di doversi conquistare voti facendo il piacione. Io gli darei a vita il governo di Roma. Adesso cioè Cantone gli ha dato, nel senso, gli ha detto: hai 45 giorni di tempo. Sì. E ci spiegherà Cantone alle 8:40 per fare cosa. E Tronca dice: io revocherò gli appalti. E il sospetto fantastico. È che questo sia uno che le cose che dice, se gliele fanno fare, tende a farle. Tende a in qualche farle. Misura ad avere questo difetto, che se dice una cosa poi la fa. Questa è una cosa incomprensibile, in realtà. Però guarda, io sono pieno di gioia, assolutamente pieno di gioia, per due grandi fatti che vedrai, rasserenerano i rapporti del centrodestra. Sì. Perché da una parte abbiamo questa, finalmente Salvini ha trovato questa ancora di equilibrio, di gioia, perché dichiara che la donna della sua vita l'ha trovata e non può farne meno. E chi è? E come chi è? La Isoardi. Allora sono su oggi forse. È su oggi, ti sei perso. Allora, questa cosa da una parte darà una luce e un equilibrio alle parole di Salvini. Ma non si erano mollati? Queste sono le sue parole, tra virgolette, l'amo, non riesco a vivere senza di lei, dice. E dall'altra Berlusconi ha fatto un check delle attività professionali della Meloni. È vero, dopo aver fatto quelle di Salvini, comparsa di Mediaset, l'unico lavoro di Salvini. Mentre invece per Giorgia Meloni la benevolenza del leader del centro-destra dice: ma al massimo ha fatto la babysitter a casa di Fiorello. Sì, che è vero, è una cosa che Giorgia Meloni ha detto: ho fatto la babysitter da Fiorello. Sì, in Berlusconi c'è questa cosa, questo livore totale, dice: non la voglio. Sul Messaggero e La Stampa addirittura pare che abbia detto: si schianti pure Giorgia, e così si sta suicidando politicamente, ovviamente parlando. Cioè Berlusconi è infuriato, dice, e pensare che l'ho fatta ministro, no? Quando era giovane. come dire, mi deve gratitudine tutta la vita, esiste perché l'ho fatta io, cioè questa versione mefistofelica del padrone delle anime, che poi è Gogol. Io invito tutti quelli che non avessero letto a leggere Le anime morte, che è un meraviglioso romanzo che mi riporta sempre a questa realtà della politica italiana, in cui c'è gente che crede di essere i padroni delle anime altrui a vita. Io t'ho fatto, Berlusconi t'ho fatto, io ti distruggo, no? Però c'è anche Umberto Bossi, oddio, Umberto Bossi è un pochino adesso proprio se ne va un dentino avvelenato. Sì. Cioè, non vogliamo, per carità, le colpe dei padri e dei figli non c'entrano, proprio nel giorno in cui il giorno prima è stato condannato suo figlio per appropriazione indebita di 158.000 euro della Lega. Comunque Umberto Bossi dice: ma Salvini pensa così, cioè mettendo la Meloni candidata, di diventare leader del centrodestra? È un coglionazzo, così Umberto Bossi pare sul Corriere della Sera abbia parlato di Salvini. Insomma, nel centrodestra proprio il clima, la sua mano a questo quadro finalmente roseo, stemperato, sì, costruttivo, sì, privo di ogni tono ultroneo. Ma fate ridere, vi rendete conto? Cioè, possibile che non si rendano conto secondo te? Ma non lo so, cioè sta di fatto che Giorgia Meloni, che oggi candiderà ufficialmente, ormai è abbastanza certo. Chi lo sa? No, pare ormai abbastanza certo. Però comunque su Repubblica c'è scritto che ha detto ai suoi collaboratori: l'importante è che Bertolaso, cioè il candidato di Berlusconi, non diventi sindaco della mia città. Cioè capisci che non è una missione, come dire, ormai basta che non vinca il tuo, cioè perdiamo pure, basta che il tuo non vinca. Sì, si chiama cupio di solvi, tecnicamente. È una precisa patologia quella per la quale si preferisce mandare a ramengo tutto ciò che fa capo ai propri interessi per fare un rispetto agli altri e senza rendersi conto che intanto ci si sta sparando. Io da giorni lo chiamo più prosaicamente il ciapanò. No? Il ciapanò, sì, meglio, più efficace. Non prendere. Sì, è più efficace, però detto questo, devo dire che a sinistra, cioè noi possiamo alternare un giorno sì e un giorno no, per occupare destra e sinistra, perché non è che anche lì il quadro, mamma mia, però... E che vinceranno dei sindaci di risulta, cioè tutti tenteranno nelle ore prima che si chiudano i seggi di fare battute per alienarsi la simpatia di votanti. Non ne abbiamo avute già abbastanza, le maternità, non la maternità, in compenso comunque l'Italia non è sola, perché negli Stati Uniti con il turno di questi nove stati che hanno votato, Florida, Ohio eccetera eccetera, Trump ormai ha fatto a pezzi nello stesso stato di Rubio, a Florida, Rubio, che si è dovuto ritirare. A questo punto la lotta è tra Trump e Clinton. Sì, questa è la notizia della notte. Sentilo Trump, dopo la vittoria. They just announced North Carolina. Hanno appena annunciato il North Carolina, cioè che ho vinto il North Carolina. Grande serata, ovviamente. So I think they're going to announce it. Florida was so amazing. Ha perso Ohio, dove ha dovuto perdere a casa. Sì, però diciamo Florida amazing, perché la Florida era del candidato Rubio, che è il senatore della Florida, e che per questo si è ritirato. Cioè ormai, cari ascoltatori, è abbastanza chiaro. Però spiegacelo tu, perché magari Trump e Clinton saranno i due competitor. Arrivare alla, ma cosa convention potrebbe succedere? Perché sai che nei repubblicani ci sono anche, c'è anche chi hanno fatto vedere che George Bush abbraccia Hillary Clinton. L'idea quasi di dire Bush è stato fatto piuttosto a pezzi. Perdiamo, ma facciamo vincere la Clinton. Non è che piuttosto, se leggi sui settimanali e sui giornali o sui siti di quelli che un tempo si chiamavano i neocon, cioè la parte del partito che per anni Bush, dietro la famiglia Bush e così via, Cini, effettivamente la sconfitta di fronte a questa irrompere sulla scena in maniera travolgente dei toni, dei modi di Trump è tale che loro efficientemente dicono: beh, questa volta è persa, lavoriamo per il futuro Clinton. Cioè non è che dicono votiamo Clinton, però lo danno per certo. Sì, quindi sì. Anche perché ai loro occhi neanche il numero due, che è Ted Cruz, è un candidato possibile agli occhi della macchina del partito repubblicano. Però agli occhi degli americani, questi sono... Agli occhi di chi partecipa ai repubblicani. Fino a questo momento Trump è stato molto abile a portare a votare gente in più alle primarie repubblicane. Chiaro. Lui secondo me porterà anche gente in più, per la propria parte, a votare alle presidenziali. Ricordiamo che le presidenziali americane siamo sotto il 40% come partecipazione. Clinton è meno brava a portare fino a questo momento la gente al voto, però ci sarà l'effetto di un mucchio di gente che dice piuttosto, no, che Trump, piuttosto che Trump. Non sape... Però attenzione, Trump andrà molto meglio di quanto crediamo in Europa. Ma no, ma infatti a questo punto già ha stupito per il fatto che è molto probabile che la candidatura repubblicana sarà la sua a questo punto. Sì, chi gliela può togliere? Penso che certo. Trump, Clinton. Ah, se volete continuare il vostro contest su dove tagliare, se foste in Renzi, perché oggi il Messaggero insiste che il bollo auto è molto guardato con circospezione a Palazzo Chigi, forse non si riesce a tagliarlo tutto, ma forse lo si sforbicia un po'. E nell'articolo del Messaggero si dice anche che, beh, stiamo studiando anche, come al solito, la solita promessa, prepensionamenti. Però dice che Nannicini... Ma quella è una cosa un po' più complicata. Nannicini dice, però raga, premier, noi non possiamo farlo in deficit, e allora la cosa non funzionerebbe troppo dal punto di vista elettorale. Sì, il bollo auto è già diventato dal lo cancelliamo, Bruxelles ci guarda al lo tagliuzziamo. Lo tagliuzziamo. E vabbè, accontentiamoci. Intanto ci chiama Daniele da Milano. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno. Eccoci. Innanzitutto una premessa, sono un fan di Giannino. Io spero che abbia sempre più spazio sul Sole 24. Fai troppo. Dai, diamo il merito. Che si ricandidi. Sì. E poi una riflessione sul sindaco di Roma. Ma noi abbiamo proprio bisogno di andare alle elezioni e votare ancora questi personaggi dei partiti, o potremmo, visto che sta facendo talmente tanto bene Tronca, tenere Tronca, perché abbiamo bisogno di andare alle elezioni? Lei dice aboliamo il suffragio universale. Aboliamo questo gravissimo errore che è stato commesso un po' di tempo fa. No, no, capisco lo spirito, però temo che siamo ancora legati un po' al caro meccanismo del votare. Casaleggio, forse un domani dice, futuro, no, se uno legge i suoi libri. Che poi ci scrivono, guarda che lo spirito non fa parte della politica, poi ci scrivono che siamo contro il 5 Stelle. Ma le battute che non le accetta nessuno in politica. Leggessero i libri di Casaleggio, questo da me. Mica l'ho scritto io, non l'ho scritto io. Ma però è molto bello. Io apprezzo invece tantissimo l'esito della vittoria delle consultazioni dei 5 Stelle per candidato sindaco di Napoli. Di Napoli, sì, ha vinto. No. Hanno senza anche spirito qui... ironico. No, perché? È perché io invece apprezzo molto che i napoletani del movimento abbiano scelto un lombardo che si chiama Brambilla. Guarda che è un segno di riscatto della città, che vive a Napoli, vive a Napoli. Però si chiama Matteo Brambilla, è nato a Monza. È anche tifoso della Juve, cioè le ha tutte. No, scherzo, era una battuta, no, anche questa. Questo non so quanto lo aiuterà. Però bisogna interrogarsi, non è che non lo sappiano coloro che lo hanno votato dei 5 Stelle, e ritengono che tutte queste caratteristiche che farebbero pensare qualunque PR, ma dai, su, è chiaro che non potete, no, proprio perché è un difetto. Sure, invece loro dicono no, perché i napoletani sono così seri e intelligenti da capire che non sono affatto un difetto. Che c'entra? Non è che si giudica le persone se di Milano a Napoli non va bene. Ma no, ma da un certo punto di vista mi hanno fatto notare, Osvaldo Napoli si candida a Torino, se mica, è per questo. In effetti. Effettivamente. Ops. Diciamo che succede. Comunque Stefano ci chiama da Milano invece. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Complimenti grandissimi entrambi. Dica, grazie. Ascoltate. No, volevo dire questo riguardo a Roma. Ma io non credo che il centrodestra siano così folli da fare tutto sto rebelotto per cercare di vincere. Secondo me lo stanno facendo per non vincere, nel senso che è una patata talmente bollente quella del sindaco di Roma, che ovviamente non possono dire che non vogliono concorrere a diventare sindaco a Roma, e quindi stanno facendo di tutto per perdere. Perché, il ciapano. Cioè, sì, ma io non ci posso credere, perché davvero stiamo assistendo a uno spettacolo. Guardi Stefano, questa è una cosa Oscar che abbiamo affrontato, cioè fin che, dall'inizio, fin dall'inizio, che dopo tutte le tragedie di cui Cantone ci racconterà qualcosa, chi si prende in mano la responsabilità di governare Roma? Forse è meglio un'onorevole sconfitta. Certo, ricordi quando i parlamentari dei 5 Stelle dissero all'inizio c'è il complotto per farci vincere, esatto. E tutti dissero il complotto. Invece. Però è anche vero che Stefano da Milano, che un conto è non vincere, altro conto è mettere una strategia per non vincere, infine terza cosa ancora incomprensibile, insultarsi e rivoltarsi nel fango come fanno loro, perché lì è difficile che ci guadagni, non solo non vinci, vinci, ma ti pregiudichi tutto. Eppure è vero, lo pagheremo con le tasse, ma tanto le tasse le paghiamo comunque. Ma io continuo a sostenere che è uno spettacolo. Ti metti lì in poltrona, vedi, leggi i giornali. È Nerone che assiste con l'incendio di Roma, ecco, più o meno. Ma tanto non è che se arriva un altro abbassa le tasse, Allora, allora è finita tutta, però. allora è finita tutta. Allora prendiamo solo biglietti one way per i nostri figli, li mandiamo altrove senza fare trame mai più. Chi lo sa che questa non sia la strada? Comunque, questa dei biglietti. Questa dei biglietti, per chi purtroppo lì è un po' classista, chi i biglietti se li può permettere? Diciamo. Però grazie a Ryanair si può anche pagare meno. Vedi, sì, la concorrenza e il mercato servono a chi ha meno. Allora, tra poco avremo ai nostri microfoni Raffaele Cantone, il capo dell'anticorruzione, ha fatto questo rapporto di cui poi Tronca parla oggi su Repubblica, ci spiegherà che cosa ha scovato negli appalti. Di Roma, tra poco. Allora, sono le 8:39 minuti, c'è Antonio da Roma. Buongiorno Antonio. Buongiorno, due piccole considerazioni. Intanto in Italia ci sono sempre cittadini di serie A e di serie B, perché il bollo si paga in modo differente da regione a regione. Seconda cosa, per quale motivo il bollo, io devo pagare un bollo alla mia autovettura che vale 1000 euro, pagata diciamo un 2000 di cilindrata, e uno che ha un 2000 di cilindrata che ha pagato 40.000 euro deve pagare i miei stessi soldi? Vabbè, quindi secondo me il bollo andrebbe ogni anno regolato in base al valore del bene. Va bene, questa è una proposta, la giriamo a Palazzo Chigi, non lo so, Antonio. Quindi la vogliono tagliare comunque, non è che la vogliono aumentare e tarare. Esatto, vorrebbero tagliarlo, toglierlo o tagliuzzarlo. Comunque stiamo a vedere, voi mandateci sempre le vostre proposte. Noi però diamo il buongiorno e ringraziamo per essere con noi Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Buongiorno Cantone, ben ritrovato. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, qui con Oscar Giannino parlavamo le 18 criticità che lei ha trovato nel rapporto. 18 non ce le può elencare ovviamente, ma ci dica quella che proprio la criticità che ha trovato più evidente in questo rapporto che lei ha fatto sugli appalti a Roma. Ma la criticità più rilevante secondo me è l'utilizzo massiccio delle procedure negoziate, cioè di procedure poco garantite, e poi diciamo la cosa pure molto negativa, l'utilizzo sistematico delle proroghe negli appalti, cioè moltissimi appalti sono stati lasciati scadere per poi fare successivamente le proroghe, e noi sappiamo che dietro le proroghe molto spesso si nascondono fenomeni diciamo strani. Ripeto, diciamo, stiamo parlando di irregolarità, non c'è nessuna prova che questi fatti siano fatti di corruzione, no, ma c'è la prova sicura che sono fatti di irregolarità che spesso celano fatti di corruzione. Lei ha constatato una continuità nelle giunte, cioè con Ignazio Marino, gliela faccio diretta, c'è stato un cambiamento oppure no? Guardi, c'è stato sicuramente un cambiamento, nel senso che molti meno appalti sono stati fatti con la giunta Marino, molte proroghe sono state fatte diciamo anche continuando gli appalti precedenti. C'è stato una continuità, ma non cioè un minimo di discontinuità, ma non certo una discontinuità netta. I numeri in questo senso parlano chiaro. Quantomeno nel 2013 la situazione è proseguita negli stessi termini e gran parte del 2014. La nostra analisi però con onestà si ferma a dicembre 2014, lì dove tutta una serie di cambiamenti che sono stati posti in campo, per esempio dall'assessore Sabella, si sono avviati all'inizio del 2015. Sì. Senta, Presidente Cantone, quando, come scrivete nel vostro rapporto, nel Comune di Roma ci sono più banche dati e sistemi informativi che gestiscono affidamenti, gare, contratti, senza essere tra loro interfacciati, quindi sono stati costruiti apposta per non consentire un controllo, e quando, come scrivete voi, viene delegato ai responsabili di procedimento la discrezionalità di decidere appunto le conferme di contratti, le frammentazioni delle soglie per evitare le gare e così via, c'è sia l'elemento umano che quello tecnologico. Voglio dire, io non credo che esistano i casi, cioè la politica ha fatto così per gestire a pezzi diversi, correnti diversi, partiti diversi, cose che poi non fossero controllabili. Allora la domanda che le faccio è, dalla sua esperienza, serve un super assessore tecnico che abbia la piena gestione per mettere insieme le banche dati, per poter cambiare i dirigenti senza dover trattare con i prossimi assessori, oppure i politici secondo lei ce la possono fare davvero senza un ausilio super tecnico di uno che conosca il diritto amministrativo, tanto per cominciare? Ma sicuramente la conoscenza degli aspetti burocratici è fondamentale, ma non credo che sia necessario un super assessore tecnico, comunque credo si tratti di una valutazione politica. Io però voglio dirle, sono solo in parte, diciamo, condivido la sua analisi. Io sì, non credo che necessariamente questa frammentazione sia il frutto di scelte, diciamo, razionali, anche se, diciamo, lei intravede una finalità pura di disorganizzazione. Potrebbe esserci. Io credo che sia in gran parte anche disorganizzazione. È la linea non ci assiste, perché è stato che l'orizzontalità era un sistema che avrebbe garantito, cioè più persone potevano fare certi atti, più questo ci garantiva. In realtà questo meccanismo si sta rivelando fallace in tutti i posti, tant'è che ormai si tende per esempio a ridurre le stazioni appaltate. Certo. Il tema vero, diciamo, è che credo che certi meccanismi vanno in qualche modo centralizzati, proprio perché ci sia la possibilità di controllarlo, ci sia la possibilità anche di individuare le responsabilità. Ripeto, io non so, non condivido integralmente, o non ho elementi per essere pensare intenzionalità. No, ho capito. Le chiediamo questo, presidente Cantone. Tronca, il prefetto Tronca, che oggi fa un'intervista a Repubblica straordinaria, nella quale, per sintetizzare, dice: a Roma si parla troppo, si ascolta poco, si fa ancora meno. Ha la relazione sul tavolo, la relazione che lei ha fatto, nella quale lei, voi come autority, avete dato 45 giorni nei quali cosa deve fare, secondo lei, il prefetto Tronca? Non permettersi nei suoi panni, ma voglio dire. Ma guardi, voglio dire, diciamo, non Tronca non è che da solo può risolvere i problemi. Io credo sta facendo tantissimo, bisogna dargli atto di un impegno veramente straordinario. Cioè lui sta mettendo tutto, come quasi mai capita di dover fare un commissario straordinario. È vero che il commissario straordinario è la capitale, ma Tronca sta provando a mettere mano alla macchina. Ovviamente la nostra indicazione di 45 giorni è semplicemente di darci l'idea come intende superare i meccanismi di discontinuità, ma siamo evidentemente i primi a essere convinti che in 45 giorni non si cambia la macchina nel Comune di Roma. Però lui ha detto: revocherò gli appalti irregolari laddove li troverò da questa relazione. Guardi, noi la nostra collaborazione con Tronca è una collaborazione continua, oltre che collegata anche a rapporti di amicizia strutturati a Milano su Expo. Tronca sta facendo già moltissime attività di sua iniziativa. Io credo che questa nostra relazione, che del resto riguarda uffici che lui ormai conosce benissimo, serva semplicemente per avere un quadro d'insieme. Però a me preme anche una cosa, che questa relazione è anche un po' una fotografia che prova a fissare un certo momento storico, certo, sul quale io credo in periodi prossimi bisognerà comunque fare i paragoni. Certo. Se questo, o qualunque candidato sindaco a tutte queste criticità deve dare risposte concrete che consentono ai cittadini di scegliere poi qual è la migliore soluzione, perché senza una svolta amministrativa, al di là della politica, la macchina non può ripartire a Roma. Assolutamente. Poi credo che un piccolo merito ulteriore di questa relazione, che devo dire è stato il frutto di un'attività ispettiva veramente complessa fatta dai nostri uffici, è anche quella di evitare di poter dire in futuro noi non l'avevamo visto, certo, non la... certo. È un po' più difficile dirlo adesso. Assolutamente sì. Ci si assumerà le responsabilità, se qualcuno ritiene che le cose vadano bene così, si assumerà la responsabilità di dirlo. Bisogna riconoscere, al di là di chi aveva critiche sull'Anaca all'inizio dicendo ma foglie di fico della politica, però come vedi sta consentendo, Alessandro, a ogni grande passaggio di mano su problemi italiani di fare delle certificazioni che non che si può prima far invece nulla, quando arrivava dopo la politica si costruiva la sua versione di come l'hanno fatti. Posso fare una domanda all'ultima mia personale, Cantone? Sì, come no, molto ma le risorse che avete a disposizione per fare tutto questo, tutto quello a cui venite chiamate dal nuovo codice degli appalti, i contratti tipo per tutte le gare, bastano, Cantone? Cioè bastano o forse bisognerebbe potenziarlo ulteriormente? Noi abbiamo bisogno di essere potenziati, nel senso che sicuramente siamo una struttura che ha delle grandi energie, delle professionalità adeguate, ma abbiamo bisogno evidentemente di poter essere potenziati, ovviamente senza esagerare, nessuno deve pensare di voler fare chissà che tipo di meccanismi di potenziamento, però abbiamo bisogno di essere potenziati, e sarebbe anche un segnale bello che l'autorità nazionale anticorruzione facesse un concorso che consentisse a 10-15 laureati, giovani laureati, di poter partecipare al concorso. E non appena avremo la possibilità, è una cosa che faremo, e ovviamente faremo un concorso che sia più possibile trasparente e chiaro, come è giusto che faccia l'autorità anticorruzione. Ci, manca, ci mancherebbe anche altro, presidente Cantone. Diciamo che alcuni pagherebbero che commetteste quell'errore per poi parlare male di voi. Ci vorrebbe il super super commissario a indagare sul concorso del commissario dell'anticorruzione. No, non avverrà. Senta, nel ringraziarla, una delle ultime volte in cui ci eravamo sentiti, lei era un po' in difficoltà con l'ANM, ti ricordi, Oscar? Sì. Com'è finita quella storia? Lei è ancora iscritto all'ANM, il sindacato dei magistrati? Sì, sono iscritto, diciamo, non ho deciso di revocare, devo dire non sono andato a votare all'ultima elezione. Per la verità neanche per scelta, perché non me ne sono dimenticato. Devo dire, diciamo, la polemica si è chiusa lì. Mi è capitato di rivedere alcuni dei colleghi dell'ANM, una serie di critiche io le continuo a pensare, diciamo, negli stessi termini. Però è chiaro che, diciamo, quell'aspetto polemico, quella verbo polemica si è chiusa. Almeno da parte mia. Si è chiusa bene, perché al punto tale da non essere una priorità per andare a votare, capisco bene che dice, no, è chiusa. Ma sì. Va bene, la ringraziamo molto, Raffaele Cantone. Grazie di quello con che noi, fa. Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Oh, tra l'altro, Oscar, su questa vicenda di Roma c'è appunto l'assessore, ex assessore Sabella, che abbiamo avuto varie volte. Diventa consulente di Renzi. Ma cioè, è stato l'assessore Di Marino, ha detto a questi microfoni, ti ricordi, Roma è ingovernabile, e adesso, criticando un po' Marino, in un'intervista ha detto non ha scelto proprio la squadra migliore, c'era anche Sabella peraltro nella squadra, adesso diventa consulente di Renzi per la lotta alla corruzione a Roma. Renzi, insomma, qualcosa ha fatto per far cadere Marino. Io ricordo di averlo sentito a un talk televisivo, in cui c'ero anch'io, tra l'altro, dire che finita Pulito, l'esperienza di Roma, basta e si tornava a fare la sua... Magari mi ricordo male. Consulente giuridico però, non è che fa il politico, non è che... Ma insomma, comunque, ha scritto un libro. Sai che anche Marino ha scritto un libro? E uscirà il 31 marzo? Questo sono ansioso, quello di Marino, ma anche ma quello io, di Isabella. Noi vorremmo invitarlo, Marino, ma ha sempre detto di no. Cioè, non siamo mai riusciti neanche ad avere un... Come si è capito, Marino, un problema con la comunicazione ce l'ha avuto. Visto che è stato uno dei fondamentali motivi per cui si è inabissata la sua esperienza. Ignazio Marino, perché non viene a raccontarci un po' come se si ricandida? Al punto tale, come hai visto, che Sella gli dice ma basta, non candidarti, non dare neanche una mano a Fassina, all'eventuale candidato da sinistra, cioè, contro nessuno Giachetti. Lo vuole neanche a fianco. Beh, a maggior ragione dopo questa relazione dell'ANAC, capisci che... Perché la relazione dell'ANAC in realtà è la risposta alle controdeduzioni che Marino aveva pregato i dipartimenti del municipio di dare alle osservazioni che venute dall'ANAC, e se non che le controdeduzioni, se uno legge, appaiono talvolta ridicole. Sì. Cioè, ridicole, dice no, ma noi le norme non le rispettiamo, non abbiamo abbastanza personale per rispettare, capisci? Non è personale. Allora, intanto ci chiamano ascoltatori. Giovanni ci chiama da Bari. Buongiorno, Giovanni. Buongiorno a voi. Dica. Niente, io stamattina ho ascoltato una notizia in TV e volevo una conferma da Giannino in quanto massimo esperto delle elezioni americane. No, ma sono appassionato. Ma lei intanto le notizie le ascolti alla radio esatto. 24. Però va bene, che notizie ha ascoltato? Niente, allora, sentivo che siccome Trump non ha raggiunto, per 63 delegati, non ha raggiunto il 60% dei delegati necessari, a questo punto... Beh, non sono ancora finite le primarie però... Sarebbe costretto a sostenere una nuova elezione, però uno spareggio, diciamo, con il secondo, in cui gli elettori sarebbero solo i repubblicani, quindi non aperte, ma all'interno del Partito Repubblicano, e quindi potrebbe essere che il Partito Repubblicano non lo voti, ma voti un altro, cioè voti il secondo. No, guardi, l'idea, questa cosa che viene alimentata incessantemente, l'idea della Broken Convention, come si chiama in termine tecnico, teorico, cioè quella di una convention in cui nessuno dei candidati dopo tutte le primarie ha la percentuale per conseguire la nomination, è l'ipotesi che da mesi insegue il GOP, cioè il Partito Repubblicano, i senatori, per l'apparato del partito, Trump, pur dicendo ma lui non Trump. Vince, lui non vince, non vince, se non che poi arrivano i turni delle primarie e lui, vince. Quindi però vede, Giovanni, come è esperto, massimo esperto. Sono affatto massimo esperto, solo una risposta precisa, un po' appassionato al nostro ascoltatore. Ci chiama invece Sergio da Varese. Buongiorno Sergio. Buongiorno, io volevo solo parlare del fatto di Roma, in realtà, per dire che non è un problema solo di Roma, il problema sembra molto diffuso anche in altri comuni o nelle ex municipalizzate. Io ho avuto un'esperienza diretta municipalizzata, buco da 38 milioni di euro, fornitori che rimanevano lì 10 anni senza alcun appalto. Quando dice esperienza diretta, cosa vuol dire? Esatto, cosa fa? Come gestione, Presidente, dopo 10 anni di gestione. Diciamo, mala gestione, diciamo. Siamo arrivati lì e c'era un ufficio acquisti con il responsabile assunto senza alcuna esperienza. Mi faccia capire, Sergio, cioè lei ha gestito una municipalizzata dopo e l'ha presa in eredità da una mala gestione? Sì, esatto, con un buco di 40 milioni e abbiamo trovato appalti che non venivano fatti, l'ufficio acquisto che gestiva solo il 2-3% degli acquisti, mentre gli acquisti vengono gestiti direttamente dall'ex presidente o da altri dirigenti. Il responsabile dell'ufficio acquisti assunto da poco, appositamente senza esperienza in appalti. Notare il appositamente senza esperienza. Un fornitore con 3 milioni di appalti, poi abbiamo iniziato le gare pubbliche, è sparito, fallito e la contabilità è bruciata su un furgoncino dopo aver preso 3 milioni da questa municipalizzata. Sergio, lei in 2 minuti ci ha fatto uno spaccato di una municipalizzata che Chicago lei ha gestito 30, più o meno. Accidenti. Sì, abbiamo fatto l'azione di responsabilità contro gli ex amministratori, circa 35 milioni per cercare di recuperare, però abbiamo denunciato le cose, però non è successo praticamente niente. Quindi il messaggio che bisogna dare è che queste cose non devono succedere e non sono limitate a Roma. E non è solo Roma, ma guardi, su questo basta leggere le notizie di cronaca, le inchieste di tutti i giorni, che è davvero come dice lei, caro Sergio. Mi scrive mio fratello in diretta: ma non fate gli auguri alla Juve, mio fratello è juventino. Ma certo, grandi auguri alla Juve, auguri di un sereno successo questa sera, di un trionfo a Monaco di Baviera. Trionfo. Guarda, io come noto sono torinista, stasera credo che avrò un cerotto sulle labbra per non cantare Deutschland, però non lo canterò. Fare gli italiani. Bisogna fare gli italiani. Ma dunque, se bisogna fare gli italiani, non bisogna essere juventini. No, perché esatto, Guardiola sa l'italiano meglio di Pogba, per esempio. Quindi per esempio. Vabbè. Comunque. Va bene. Ci troviamo domani. Ciao a tutti. Ciao. Alino, Giannino, Giannino, Alino, Giannino, Alino, Giannino, Go!